che è più simpatico non si può, per non parlare di quella risata sgangherata, divertente, spiritosa, che cattura anche lo sguardo più distratto, e i tuoi capelli ondulato, specchio dei tuoi capricci, quasi mi commuovono d'amore. Alessandra, sogno realtà, per me sei quasi una divinità, quando mi guardi così, perdo la mia identità, ascoltami, Alessandra, pensami, Alessandra, sognami, Alessandra, amami, Alessandra. Torna in mente il tuo fare un po' pa, quell'atmosfera grunge in Nirvana con l'amo, e tu godevi nel sentire ogni vibrazione elettrica. Balliamo insieme o fuggiamo domani, Alessandra, Alessandra. Capelli ondulatori, specchio dei tuoi capricci, quasi mi commuovono d'amore. Alessandra, sogno realtà, per me sei quasi una divinità, quando mi guardi così, perdo la mia identità. Ascoltami, Alessandra, pensami, Alessandra, sognami, Alessandra, amami, Alessandra.